Ed eccoci qua, siamo in contemporanea o quasi, l'anticipiamo di un giorno, l'apertura ufficiale di Sabotate con Grazia, un'infestazione di chip al mambo. Presentata nella giornata del 3 ottobre, troviamo l'apertura domani, quindi siamo esattamente allineati con il mambo di Lorenzo Balbi, che alla direzione della sede espositiva dichiara importanti affermazioni per quanto riguarda questa iniziativa di intersezione tra CIP e il Museo di Arte Moderna di Bologna. E quindi conosciamo anche CIP grazie alla voce di Flavia Tommasini, che già abbiamo avuto per altre realtà all'interno di Radio Città Fujiko. Sarà una conversazione, dialogo per presentare questo incrocio che porta una denuncia, Sabotate appunto, ma con Grazia e allo stesso tempo con dei contenuti quanto mai intensi. Quello che abbiamo visto in questi 10 anni a sorpresa nella nostra città, tra manifesti, installazioni, in luoghi inaspettati, con poster, fotografie, immagini di realtà che hanno portato un'attenzione per tutto ciò che, oltre all'orientamento sociale, è anche per saltare tutto che è la differenza di genere e quant'altro. Ne abbiamo parlato con Flavia perché CIP, dopo i suoi 10 anni, racchiude insomma un'attività che viene portata in questo caso in un chiuso museo, che così chiuso poi non è, appunto, vedendo come è stato trasformato grazie alle installazioni e alle collaborazioni che ci sono state tra CIP e il Museo Mambo stesso. Sentiamo allora la presentazione di Flavia per quanto riguarda l'iniziativa Sabotate con Grazia. A tra poco. Cominciamo subito allora la nostra conversazione per la rubrica In Mostra di Radio Città Fujiko. È la prima volta che ci incontriamo, anche se ovviamente conosciamo già sia il collettivo che il progetto e anche i contenuti, però avremo modo di approfondire con un'intersezione attraverso il Mambo. Intanto siamo in compagnia di Flavia Tommasini, co-founder di CIP, tra l'altro ascolto, ringrazio e saluto anch'io tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Fujiko che mi sentono anche in altre vesti. E quindi è una finta diretta quella che iniziamo in questo momento. Cosa comprende questo incontro al Mambo tra CIP e appunto questa sede espositiva? Ma allora, questo incontro, l'occasione per che avvenisse questo incontro sono stati i 10 anni da quando CIP esiste, quindi questa esperienza che si è comunque fondata o comunque ha preso vita nel 2013 e che in questi 10 anni ha avuto anche tanti cambiamenti, però una cosa che è rimasta, alcune cose, punti fermi sono rimasti, quindi tendenzialmente lavorare nello spazio pubblico, lavorare con l'arte pubblica e lavorare con l'impermanenza, nel senso che CIP storicamente, per chi ci conosce lo sa, lavora con la carta incollata ai muri, che per quanto riguarda noi, la nostra storia e la nostra prospettiva di guardare la città, è un po' un mezzo che abbiamo scelto perché non abbiamo trovato niente di più impermanente per lavorare sullo spazio pubblico. E quindi insomma in questi dieci anni è arrivata l'occasione di confrontare questa pratica che è sempre stata praticamente quasi esclusivamente in strada o dentro spazi che noi abbiamo abitato temporaneamente con il Museo d'Arte Moderna. Of life. Dalla Mowbox, dalla Warp e dalla K7, nello specifico la base Mowbox con gli Outtaker, che a loro volta già musicisti per la Warp, e allo stesso tempo la K7 con la voce che stiamo ascoltando, che è Andrea Parker, una originariamente violoncellista che poi con la passione dell'elettronica trasforma questi suoni in DJ Works, Ambient, EDM, per una produzione, come vi dicevo, oltre che forbita, anche molto evocativa e intensa. Andrea Parker con lo sconosciuto The Unknown che stiamo ancora ascoltando. Il pubblico è abituato a un'idea di arte pubblica effimera, instabile, come la carta dei poster che vengono così portati in strada, una realtà che ha dei contenuti politici transfemministi che vengono disseminati sul passaggio urbano della città. A sorpresa, certo, è impermanente ma estremamente incisiva la situazione che Chip ha sorpreso. Street poster art si presentano in maniera molto sintetica in questo modo, ora in una raccolta per 10 anni di lavoro, l'arrivo al Mambo che diventerà a sua volta proprio infestato, come dirà lo stesso direttore Lorenzo Balbi. Ma vediamo appunto, dopo aver presentato Chip, anche il contenuto dell'incontro. Siamo al chiuso, però siamo partite da un dato, che il museo non è uno spazio privato, ma il museo, il Mambo, è uno spazio comune, e quindi abbiamo pensato a questa suggestione, a come gli spazi di un luogo comune come il museo della città potesse ospitare e ricollocare in qualche modo 10 anni di interventi di strada di Chip. E il modo che abbiamo trovato non è stato assolutamente quello di una mostra, e quindi abbiamo guardato gli spazi e abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto abitare degli spazi che non erano destinati alle mostre classiche o insomma alle collezioni, e quindi è nata questa interferenza che comprende, poi mi auguro insomma che tutti veniate a vederla, comprende il foyer, comprende dei piccoli inserti all'interno delle collezioni permanenti, quindi un po' pirate, comprende delle installazioni luminose sui pianerottoli delle scale, comprende delle vecchie bacheche che abbiamo recuperato dai nostri 10 anni, perché ogni tanto anche quelle sì, si staccano, e abbiamo abiteremo i bagni e abiteremo spazi assolutamente imprevedibili che credo sia carino anche scoprire per chi arriverà a visitare questi spazi nei prossimi 2 mesi che verranno abitati da Chip. Yeah. È il lavoro di Andrea Parker che stiamo ascoltando nella rassegna discografica DJ Kicks, da collezionare tutti per DJ Kicks, il DJ set di Thievery Corporation, di Kruder & Dorfmeister, di Nightmare on Wax. E anche in questo lavoro di Andrea Parker, praticamente un DJ set, una selezione musicale raccolta e mixata per la K7, una collana veramente da portare in maniera molto gelosa, non solo per l'originale idea di trasformare un DJ set vero e proprio in un lavoro discografico, ma anche per la qualità della ricerca musicale di questi protagonisti. Procediamo con la nostra conversazione con la affermazione di Lorenzo Balbi, il direttore di Mambo: si è deciso di non utilizzare il termine mostra, preferendo la suggestione di infestazione. Alcune artiste hanno definito Chip un virus infestante in grado di mutare insieme all'ambiente che lo circonda. Erano ovviamente tempi pre-Covid, tempi in cui una similitudine del genere sembrava chiaramente meno mortifera, appunto una suggestione. Ancora raccogliamo questi inviti all'attenzione per il lavoro di Chip, dopo 10 anni in questo caso raccolto al Mambo, e beh, intanto vi faccio ascoltare il mix di Andrea Parker, eh? Talento lei, oltre che DJ, produttrice, musicista, come vi ho detto, nasce con studi classici al violoncello, poi la passione per l'EDM e l'elettronica. Andrea Parker per DJ Kicks di Sonar Collective, la colonna sonora dedicata all'esposizione che appunto sarà fino al 17 dicembre 2023. Sabotate con grazia. Ho aggiunto così in questo brano di conversazione con Flavia, anche così ascoltando attentamente le sue parole, che con molto trasporto, quindi insomma un velo di emozione anche. Beh, del resto i 10 anni sono, non dico un traguardo perché non si può parlare di traguardi, però una presenza quanto mai importante. Ci siamo trovati un po' così di sorprese anticipando alcuni contenuti, però traspare dalla tua voce un po' di emozione, sai? Beh sì, perché è stato appunto una sfida per noi pensare, anche rimettere mano ai nostri materiali per riadattarli qui. Ad esempio abbiamo anche trovato una collocazione per un sacco di materiale fotografico che in questi anni abbiamo prodotto grazie ai fotografi e alle fotografe che ci hanno seguito. Senza di loro, ad esempio, non sarebbe stato possibile tracciare una storia di questi 10 anni, che poi è stata anche attraversata nei cataloghi e nei libri che abbiamo autoprodotto. E questo, ad esempio, ci ha fatto in qualche modo ripercorrere, no, anche la memoria del tempo della storia di Chip, da una parte, e dall'altra l'emozione c'è, perché comunque tutto lo sforzo e anche questa presenza al Mambo c'è, è tutta autoprodotta da noi e siamo qua noi ad attaccare le cose. Ma non siete affatto al chiuso, secondo me, perché è sempre motivo di apertura comunque i contenuti portati dal collettivo, e non solo, per quanto riguarda aperture anche nel tempo. Beh, 10 anni, però abbiamo progetti futuri, ovviamente. Sì, noi abbiamo dichiarato più volte che non siamo proprio siamo giovani. No, ma a parte questo tema della giovinezza di Chip, su cui si potrebbe aprire un capitolo importante, perché sembra che saremo per sempre le ragazze di Chip, perché se sei un collettivo tutto al femminile inevitabilmente sarai sempre per forza una ragazza. Diciamo che non ci piace molto fare bilanci, non siamo proprio abituate a fare bilanci, ma a cambiare sempre forma, e quindi quando cambi forma continuamente sei sempre qualcosa che è un po' più avanti di quello che pensi di bilanciare. Siamo sbilanciate forse. In avanti. Questo stacco di DN Music porterà la nostra, in questo caso, DJ protagonista, un mix che veramente è scuola. Quindi 8 e 27 minuti, stiamo portando al termine questa conversazione con Flavia Tommasini, co-founder di Chip. Tutto quel funk, no wave, quella suggestione anche in questo caso di come l'elettronica abbia assorbito un'idea funk, con la radice afro nella parte dedicata alle voci. Difficile creare un percorso quando tutto è percorso, almeno ho assistito alla preparazione, a piccole parti di preparazione, è un lavoro omnicomprensivo, un'intensità avvolgente, e quindi sì, la domanda è dopo, però chiaramente è difficile poi anche ottenere una risposta a proposito delle opere in esposizione. Non ti sto a chiedere quante opere e quante saranno anche le creazioni che in questo momento stanno portando per avere questa intersezione al museo. Guarda, in realtà non saprei neanche dirtelo, perché appunto alcune sono installazioni più grandi che prendono più spazio, altre che prendono degli spazi piccoli, altre sono proprio delle vere e proprie sorprese o dei micro, degli interventi così che si troveranno. E posso dire però che uno dei materiali principali che stiamo utilizzando è un materiale che abbiamo già usato per appunto un'installazione per noi molto importante, che è l'oro. E l'oro per noi ha un significato particolare, perché per utilizzare per l'installazione utilizziamo delle coperte termiche, che sono le coperte termiche che è la prima cosa che vediamo addosso ai migranti nel Mediterraneo. Mi sembra importante ricordarlo anche adesso, perché ancora adesso il Mediterraneo è un grandissimo cimitero, e quindi riuscire a trovare questo elemento che visivamente in questo periodo è simbolo di un dramma, delle politiche sbagliate, di un mondo che pensiamo sempre si possa cambiare, e portarlo dentro al museo e farlo diventare quasi un elemento nobile di questa installazione è per noi molto importante. Sì, assolutamente. Io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo il periodo di esposizione? Allora, noi saremo qui fino al 14 dicembre, quindi inauguriamo il 5 ottobre dalle 6 alle 21, poi dal 6 di ottobre fino al 14 dicembre. Ci tengo anche a dire una piccola cosina, un piccolo spoilerino che in realtà diremo, è che all'interno di questi due mesi Mambo ci ospiterà anche per degli incontri che sono per noi importanti. Il 21 di ottobre presenteremo il nuovo libro, un nuovo libro di Chip, che questa volta non è un catalogo ma un racconto di questi 10 anni, che uscirà tra l'altro in libreria con l'editore People, che è un'altra cosa che per noi ci emoziona particolarmente. E il 16 di novembre saremo qui con Giovanni Attili e Silvia Calderoni a parlare di un progetto a cui noi abbiamo partecipato qualche anno fa, che è il Festival Civitonia, il festival che non c'è, e che parla insomma una tematica molto interessante su turistificazione, borghi, noi abbiamo lavorato collettivamente con tanti altri artisti. E invece a dicembre faremo un po' una riflessione attorno al tema dell'arte pubblica, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore: città, arte pubblica, stato dell'arte, con una delle nostre complici in questa incursione e infestazione del Mambo, che è Fabiola Naldi. Grazie, Radio Città Fujiko è al vostro fianco. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Perdoniamo a Flavia la parola spoilerino, dai, sì, anche da un dinosauro del digitale, di questi neologismi come me, comprendendo l'aspetto non solo di percorso ma di contenuto e di incontro. Perdonata, è come anzi. Ringrazio per la disponibilità Flavia, co-founder di Chip Street Poster Art, 10 anni, e l'incontro con il Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna. Vi ho parlato del DJ Kicks. Ecco, all'interno del DJ Kicks, nella rassegna di DJ Set, ha trovato spazio anche Stereo MCs, che stiamo ascoltando con questo che è stato il suo successo, che lo ha sdoganato anche al grande pubblico. Ci porterà la pubblicità e poi nuovamente in diretta con il Last Minute. Prima di congedarci con la rubrica in mostra, la rubrica Regola d'Arte del giovedì al Breakfast Club, vi dico che l'esposizione Sabotate con Grazia sarà fino al 17 dicembre del 2023 e domani l'apertura ufficiale. A tra poco! See through you. Come on, I'm gonna do it again. Hear me out. Terrified.